prima edizione. L'informazione del mattino. 6:16 minuti, ricorderete la vicenda di JP Morgan. La banca ha perso 2 miliardi di dollari in una serie di operazioni di trading piuttosto complesse. Alcuni manager erano stati allertati di queste pratiche condotte da alcuni trader a Londra 2 anni prima che queste scommesse appunto costassero alla banca quei soldi. La notizia arriva dal Wall Street Journal. Adesso la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Ebbene, riprendiamo, anche se in realtà non abbiamo mai staccato, le 6:18, le 6:18 e 5 secondi, e veniamo alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E la pagina che dobbiamo prendere come prima, non insomma perché facciamo parte dello stesso gruppo editoriale, è il Sole 24 Ore, perché è una scelta piuttosto forte. Voi ricorderete probabilmente la prima pagina che venne fatta quando lo spread era ai massimi e l'Italia sembrava appunto potentemente sotto attacco, insomma prima della caduta del governo Berlusconi e dell'arrivo di Mario Monti, ed era quell'enorme fate presto a caratteri cubitali che campeggiava sulla prima pagina del quotidiano. Ebbene, il concetto è più o meno lo stesso, e però la scelta è per la lingua tedesca. Grande titolo, ha grandissimi caratteri, non grandi come il fate presto che ricorderete, però molto grandi. Una foto di Angela Merkel e la scritta è Schnell, Frau Merkel, presto signora Merkel. Le tre scelte da fare subito per salvare l'euro e costruire l'Europa politica, quindi a dare ancora una volta al Sole 24 Ore il senso dell'urgenza di questo momento. A corollario, o meglio, come elemento centrale di questa prima pagina, l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, che fa il punto sulla situazione e dice: ci sono 3 mosse da fare subito, almeno quelle immediate, per dare una sistemata alla situazione. La garanzia unica per i depositi bancari europei, l'accesso diretto al fondo salva stati, l'IFSF, da parte degli istituti di credito. Scrive Napoletano, potrà sembrare un dettaglio ma non lo è, le turbolenze ieri sui mercati sono figlie proprio della convinzione che gli aiuti arriveranno da un secondo fondo di stabilità, l'ISM, non dell'IFSF, e questo incide sulla qualità e il tasso di rischiosità dei titoli di Stato spagnoli. E infine l'unificazione dei debiti pubblici europei, distinguendo paese per paese il carico degli interessi ma neutralizzando l'azione della speculazione sui tassi dei titoli sovrani dei paesi del sud Europa e non solo, che si è rivelata molto onerosa. Ad accompagnare tutto questo c'è la cronaca, che ha un titolo su aiuti a Madrid, soffre l'Italia, svanisce l'effetto dei 100 miliardi alle banche iberiche, Palazzo Chigi no ad allarmi ingiustificati, e però appunto lo spread tra BTP e Bund risale a 473 punti. Impressionante ancora una volta, spesso sta mettendo in questo periodo il Sole 24 Ore il grafico dello spread spagnolo, ossia della differenza di rendimento tra i titoli di Stato spagnoli e i titoli di Stato tedeschi. Partiti i titoli di Stato spagnoli, lo spread dei titoli di Stato spagnoli a 328 punti di differenza rispetto al Bund quando era solamente dicembre, arrivati a 521 punti nella giornata di ieri. Commento in prima pagina, da finanziario il contagio si fa politico, firma di Luigi Zingales. Vi segnaliamo in merito alla questione degli esodati, quindi questioni previdenziali, ecco i tutelati e gli esclusi, quindi c'è il Sole 24 Ore cerca di fare un po' di chiarezza da questo punto di vista. Comunque il titolo di apertura appunto si diceva Schnell Frau Merkel, faccia presto signora Merkel. Il Corriere della Sera nell'apertura ai mercati, tensione sull'Italia e sul numero poi nel sommario e sul numero degli esodati, Fornero contro l'INPS. da segnalare che si parla anche ovviamente ancora di Spagna, Bankia al capolinea, il grande inganno dietro la quotazione, pezzo di Federico Fubini, e poi invece un pezzo di Sergio Rizzo che fa i conti sulla spesa pubblica, altro tema centrale sulla nostra spesa pubblica. Spesa pubblica record, ogni minuto cresce di 40.000 euro, questo il titolo, ogni minuto 40.000 euro. A centropagina le dimissioni di Giuliano Pisapia dall'Expo, dal commissario dell'Expo, un governo poco attento, Monti chiede di ripensarci, tutto questo a 1000 giorni, ricorda il Corriere, dalla data dell'inaugurazione. Commento di Gian Giacomo Schiavi in prima pagina, ultima chiamata per non arrendersi. E sempre sul Corriere della Sera, una storia che farà discutere, che è lo scontro tra genitori e insegnanti di una scuola, perché il titolo è i 5 bimbi bocciati in prima elementare, 2 bambini italiani, uno dei quali disabile, 3 extracomunitari bocciati in prima elementare all'istituto Giulio Tifone di Pontremoli, siamo in provincia di Massa Carrara. Questo il quadro per quanto riguarda il Corriere della Sera. Veniamo alla Repubblica, anche qua giù le borse, Italia nel mirino, insomma con differenti gradazioni, il tema naturalmente è sempre quello, e gli aiuti alla Spagna che non convincono i mercati, lo spread oltre 470, un retroscena firmato da Alberto D'Argenio e Carmelo Lopapa con questo titolo: Monti, tutti gli occhi sono puntati su di noi, inizia così, facciamo attenzione perché con quello che è successo alla Spagna abbiamo tutti gli occhi puntati addosso, e questo è quello che avrebbe detto il Presidente del Consiglio Mario Monti. L'analisi di Moisés Naim, chi corre più rischi tra Roma e Madrid. Interessante il titolo sulla RAI, perché tanto se ne è parlato in questi giorni. Ebbene, Lorenza Lei, il direttore generale dell'azienda, di fatto che ha ricevuto di fatto il ben servito dal Presidente del Consiglio, anche se non è il governo che nomina il direttore generale, ma il Consiglio d'amministrazione, ma insomma il governo ha indicato, come sapete ormai, Gubitosi. Ebbene, la Lei protesta con il Premier, stallo sulla RAI, questo il racconto di questo il racconto di Repubblica sulla vicenda, mentre il PD dice a Bersani sul Consiglio di Amministrazione ripensaci, perché Bersani aveva detto insomma non vogliamo indicare nessuno. Naturalmente in primo piano anche lo scontro sugli esodati, ma anche una vicenda di cronaca giudiziaria, le tangenti a Sesto, Penati tentò di condizionare le testimonianze alle carte dei pubblici ministeri, sistema di illeciti impressionante. Questo per la Repubblica. Anche qua per la Stampa, anche sulla Stampa, l'Italia finisce sotto tiro, le manovre di chi specula in malafede, il commento in prima pagina di Stefano Lepri. Un titolo sugli esodati, naturalmente, un titolo sulla Siria, civili in trappola nelle città bombardate, ci sono le prime immagini dei raid che stanno girando, e invece a centro pagina la foto della Fontana di Trevi, ma non per parlare solamente di del crollo che c'è stato l'altro giorno, il crollo di cornicione che c'è stato l'altro giorno. Si parla della caccia allo sponsor per salvare i monumenti e caccia allo sponsor. Crollo da 200.000 euro alla Fontana di Trevi senza l'aiuto dei privati. I comuni non ce la fanno. Questo il racconto. Vi segnaliamo che più o meno in tutte le prime pagine dei quotidiani trovate la vicenda di David Cameron, il premier britannico che ha lasciato la figlia al pub dopo il pranzo domenicale. Il Messaggero... mentre tutti lo danno abbastanza un po' più raccontando solamente il fatto, il Messaggero dà più conto della polemica. Cameron dimentica la figlia al pub e bufera a Londra sul Premier. A centropagina il Messaggero, oltre ad un titolo ovviamente sui mercati, un titolo sugli esodati e un titolo anche sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa nel giornale radio, ossia che i comuni dicono che dal 2013 l'IMU passerà direttamente a loro e sarà più facile abbassare le aliquote. C'è una bella foto di centropagina di Daniele De Rossi, protagonista contro la Spagna. Boom della nazionale in TV, sale la febbre azzurra. Infine, prima di chiudere questa parte di rassegna stampa, vi vogliamo segnalare qualche altro quotidiano, quantomeno per quanto riguarda le aperture. Gli esodati sono 390.000. Perché la Fornero ha mentito? Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, e che quindi non accredita la tesi dell'errore per quanto riguarda gli esodati, ma tesi appunto del falso. I dati dell'INPS sbugiardano la ministra del lavoro, che aveva detto sono solo 65.000 quelli rimasti senza occupazione, senza pensione. Intanto Monti apre il caso Catricalà. Lo apprezzo, ma esigo lealtà. Il commento di prima pagina, firma di Stefano Feltri: eutanasia di un governo. E anche l'Unità accredita questa tesi. Esodati, la bugia di Fornero è il titolo. Un rapporto dell'INPS smentisce la ministra del welfare. E la Camusso, il segretario del CGIL, parla all'Unità e dice: lo abbiamo sempre detto, ora il governo trovi i fondi. A centropagina sull'Unità il titolo: Italia in recessione e la borsa crolla. E ci sono due interviste, una a Luigi Berlinguer, che dice, ex ministro dell'istruzione, sia il merito ma la scuola sia per tutti, e un'altra Antonio Di Pietro che critica Vendola: io non sarò una costola del PD. Chiudiamo con altri due giornali, Libero e Il Giornale. Libero, i numeri di un fallimento. Esodiamo Monti, questo è il titolo di apertura. L'INPS certifica: le vittime dell'errore nella riforma delle pensioni sono 400.000. Intanto il PIL precipita, la spesa pubblica sale, lo spread corre, le partite IVA muoiono. Titolo abbastanza velenoso su Fabio Fazio, che presenterà il Festival di Sanremo. Il Sanremo sobrio va a re del nulla. Il giornale: Monti sta fallendo, la medicina non funziona, e questo è il titolo. Paghiamo 50 miliardi per aiutare la Spagna, ma il PIL e la borsa calano e lo spread sale ancora. Allarme delle ferrovie: senza finanziamenti aboliremo i treni locali. A centropagina segnaliamo infine, sempre dal giornale, l'inchiesta sul sistema Sesto, grande foto di Penati, le carte che accusano Penati inguaiano il PD. Verso il processo l'ex braccio destro di Bersani, ma le tangenti rosse portano a Roma. Questo è il quadro, una breve pausa, ci ritroviamo tra poco. Prima edizione. Sono le 6:36 minuti esatte. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biachessi, oggi è il 12 di giugno, questa è la prima edizione di Italia in controluce. Il terremoto sta mettendo in ginocchio una delle zone più produttive del nostro paese. Le scosse proseguono in mezza Emilia e la paura è molta. Come stanno lavorando i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto, soprattutto in provincia di Modena? Sentiamo il reportage di Cristina Carpinelli. Guardi, io le posso dire da San Feliciana, quindi io abito e vivo e dormo sul cratere, che la situazione è veramente esasperante. C'è una grande fermezza d'animo, una grande determinazione, un grande impegno dalle amministrazioni alle forze dell'ordine, però davvero uno stillicidio. Siamo sempre pronti a ripartire, ma queste scosse continuamente ci segano le gambe. Qui a Modena, questa mattina sono venuta in ufficio e andrò a Bologna appunto per affrontare i temi della scuola e dell'edilizia scolastica. A Modena c'è molta paura, perché indubbiamente, anche se non ci sono dei danni alle cose, non ci sono i crolli e la devastazione dell'area della bassa nelle quali vivo, c'è però molta preoccupazione, perché le scosse si avvertono distintamente e quindi la situazione generale è quella di uno stress continuo, insomma. L'assessore all'istruzione della provincia di Modena, Elena Malagutti, è di San Felice, uno dei comuni più colpiti dal terremoto in Emilia. Ma lei lavora a Modena, dove il terremoto ha fatto pochissimi danni. Eppure non ha mai smesso di prendere l'auto e arrivare in ufficio, puntuale, senza mai sovrapporsi al lavoro degli altri amministratori locali. Ognuno ha un compito e la promessa è quella di non andare a toccare il compito dell'altro. non fanno retorica eroica e ci dicono soltanto che si lavora e si ha paura. Ce lo dicono tutti. Alberto Silvestri è il sindaco di San Felice. Un dato di paura permanente e di smarrimento, sembra quasi che siamo tutti in attesa della scossa successiva. E per cui la situazione non è granché cambiata. Ieri abbiamo, diciamo così, ultimato, dato seguito a tutte le richieste che c'erano pervenute di alloggio, quindi nei vari campi tenda, consapevoli del fatto che molta gente ancora continua a rimanere in adiacenza alla casa con la macchina, con una tenda, con una roulotte, con un camper, insomma a seconda di sistemazioni più o meno fantasiose di fortuna, ecco, diciamo così, per cui questo è più o meno quanto, ecco. A San Felice i danni del terremoto sono stati del 70% alle imprese. Attorno al paese le cascine dei contadini sono mezze crollate e per molti giorni intere famiglie sono rimaste isolate e senza acqua. Ancora il sindaco di San Felice. Noi stiamo cercando di raggiungerli, non è facile perché a volte sono situazioni abbastanza critiche, isolate, anche perché tutto il personale è abbastanza, diciamo così, coinvolto nella sistemazione dei campi, nell'organizzazione e nel cercare di fare ripartire un po' tutta la macchina, diciamo così, amministrativa. Era Italia in Controluce, la prima edizione. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate, è scaricabile su podcast attraverso il sito radio24.it. Siamo su Facebook, abbiamo la pagina e il gruppo e siamo anche su Twitter. Sono le 6:40. Tra un attimo andremo ai mercati e vedremo anche gli aggiornamenti sul terremoto, ma prima vi voglio parlare di un evento che c'è stato ieri. È stata la prima uscita di un grande appuntamento Apple di Tim Cook e cambierà qualcosa per i possessori di iPhone e iPad e anche per quelli che lo compreranno nei prossimi mesi. Enrico Pagliarini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, diciamo subito che stiamo parlando di una conferenza che è stata aperta, diciamo, al pubblico perché si poteva seguire via web, ma è una conferenza per gli sviluppatori, cioè quelli che costruiscono il software che poi gira sopra all'iPhone, all'iPad. Ci sono state tante novità presentate, anche nuovi computer portatili, ma forse la novità più interessante, che era stata già anticipata da alcune indiscrezioni la settimana scorsa e che ci dà anche un po' il senso di questo mercato, di quanto competitivo è questo mercato, riguarda le mappe. Uno dice: ma che novità potrebbe essere quella relativa alle mappe? Allora, sappiamo che su questi telefoni viene ancora oggi utilizzato Google Maps, che è un servizio molto famoso, insomma molto comodo, fatto molto bene. Allora, Apple dice dal prossimo autunno, con l'aggiornamento alla versione numero 6 del sistema operativo, abbandoneremo Google Maps, che insomma è un'affermazione piuttosto forte. Allora, sappiamo che negli ultimi 3-4 anni Apple ha acquistato società specializzate nella realizzazione di mappe, anche mappe tridimensionali, e finora non si era visto nulla. Infatti tutti si domandavano che cosa se ne fa Apple di queste aziende. Allora, dal prossimo autunno vedremo, ci sarà proprio un'applicazione che si chiama Maps, che sostituirà Google Maps. A questo punto Google Maps, con tutti i servizi che noi utilizziamo, sarà su terminali mobili disponibili solo su Android, e il mercato comincia a farsi concorrenza anche con questo servizio. Allora, quali sono le novità? Le novità saranno, tutti si aspettano di vedere, insomma, mappe fatte molto bene, costruite molto bene, molto comode, molto efficienti. Poi ci sarà il servizio, una novità sicuramente molto interessante, perché fino ad oggi su prodotti Apple non c'era, e parlo di servizio di navigazione, quindi avremo un navigatore sull'iPhone, cosa che per il momento c'era solo per Android con il sistema Google Maps, di navigazione su Google Maps, e su Windows Phone con i sui Nokia, diciamo così, con Windows Phone con il servizio di Nokia. Con comando vocale, tra l'altro. Sì, questa è un'altra novità, poi vedremo insomma l'atto pratico. Questo Siri, che è un sistema interattivo di Apple che si comanda con la voce, dovrebbe espandersi fino alle mappe. Quindi dovremmo probabilmente, vedremo poi insomma come funzionerà l'atto pratico, diremo portami in via Garibaldi e il navigatore ci porta in via Garibaldi. Oppure cercami piazza Garibaldi, il navigatore ci cerca piazza Garibaldi. Una delle cose affascinanti, che tra l'altro è stata annunciata nei giorni scorsi anche da Google, è questa evoluzione verso le mappe tridimensionali, quindi mappe sempre più belle, sempre più veritiere, sempre più affascinanti, anche belle da utilizzare. Vedremo dunque, grazie nel frattempo ad Enrico Pagliarini, buona grazie giornata. Grazie a voi, Enrico. Buona giornata. Noi passiamo a parlare di mercati con la giornata durissima di ieri, e lo facciamo con Luca Bagato, amministratore unico di Macro Markets SRL, spesso nostro ospite quando ci occupiamo di questi temi. Buongiorno Bagato. Buongiorno a tutti, buongiorno Simone. Allora, la domanda che si stanno ponendo tutti è... il titolo del New York Times, per dire, è: la preoccupazione per l'Italia sostituisce rapidamente il sollievo per la Spagna. A testimonianza di una giornata molto difficile, quella di ieri sui mercati, e delle preoccupazioni che riguardano il nostro paese. La prima domanda è proprio su questo: la lettura del, pardon, non del Financial Times, del New York Times, la lettura del New York Times è corretta secondo lei? Ma in questo momento sicuramente il mercato sta prendendo quella strada, semplicemente perché il salvataggio delle banche spagnole è stato fatto ricadere di fatto sul governo, quindi diciamo l'ammontare di largo circa potrebbe anche andare bene, anche se probabilmente secondo me serviranno 10-15 miliardi di euro in più, ma in realtà facendo ricadere sul governo aumenta l'impatto delle percentuali di debito sul PIL, e questo chiaramente richiama la memoria i debiti più elevati rispetto al PIL, cioè il nostro, e quindi il mercato comincia a muovere. Vedevo stamattina ad esempio il CDS sull'Italia, quindi la copertura assicurativa a 5 anni è tornata sopra i 550 basis point, quindi siamo sulla via, probabilmente testata già a novembre dell'anno scorso, quando andammo a toccare dei livelli molto vicini a 600. Allora, giusto per ricordarlo, i CDS, i credit default swap, sono in sostanza delle sorta di assicurazioni, sono dei derivati, ma sono in realtà delle assicurazioni dal rischio di fallimento di un paese, e quindi più costano e più è come se pagaste un premio più alto, e quindi in sostanza vuol dire che il rischio diventa più elevato, il rischio di default diventa più elevato, per renderla molto semplicemente. La viabilità, e poi voglio capire se c'è aria di fuga di capitali. Prima edizione. Allora, abbiamo circa un minuto. Se ne è parlato molto in queste settimane. Bagato, lei che ha un occhio sul mercato e insomma su questi movimenti, c'è aria di fuga di capitali da questo paese, dall'Italia? Ma io penso che al momento sia un po' prematuro pensare a uno scenario del genere, devo dire allontanerei l'idea di una fuga in massa di capitali dall'Italia. Il paese rimane ancora oggetto di investimento, soprattutto da parte dell'estero, sul comparto dei titoli pubblici in particolar modo. Ovviamente quello che sta succedendo in Spagna, con i rendimenti che ha raggiunto ormai il 6,50%, mette un po' a rischio la sostenibilità del debito al momento, però devo dire che l'Italia è uno dei paesi che riesce a gestire al meglio poi una situazione di stress, la ripartizione del debito pubblico. Probabilmente qualche estero, magari qualche italiano spaventato, potrebbe anche aver portato i capitali al di fuori dell'Italia, in Svizzera piuttosto che in Austria o in Inghilterra, ma il fenomeno al momento non è un fenomeno secondo me rilevante. Quello che è rilevante è che siamo in mezzo a una crisi accademicamente definita gemella, cioè quando una crisi sovrana si ribalta sulle banche. Questo chiaramente crea un problema al finanziamento del debito pubblico stesso, cioè in Spagna un terzo del debito è finanziato dalle banche, in Italia siamo a una cifra anche superiore a questo terzo. Questo vuol dire che se le banche non vengono stabilizzate, poi è difficile pensare chi comprerà il debito pubblico sulle prossime emissioni. Quindi c'è bisogno solamente di una cosa, forse il titolo del Sole 24 Ore di questa mattina è indicativo, ve lo ripetiamo ancora perché è curioso, è schnell Frau Merkel, presto signora Merkel, vedremo che cosa succederà anche dal lato europeo. Grazie nel frattempo a Luca Bagato, come sempre, per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a voi, arrivederci. Siamo quasi in chiusura, abbiamo un minuto e mezzo circa per parlare di terremoto e le nuove scosse di questa notte. Katia Caramelli, buongiorno. Sì. Sì, buongiorno. La scossa è stata registrata, quella più forte, alle 3.48 di questa notte tra le province di Mantova, Reggio Emilia e Modena. Magnitudo 4.3 sulla scala Richter. Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica, il terremoto ha avuto come epicentro il comune mantovano di Moglia, quelli reggiani di Fabbrico, Reggiolo e Rolo e quelli modenesi di Carpi e Novi di Modena. Una scossa abbastanza forte, chiaramente avvertita dalla popolazione, in particolar modo nella provincia di Modena, ma dalle prime verifiche fortunatamente non risultano danni a persone o cose. Questa comunque non è stata l'unica scossa della notte, ben 8 quelle registrate in Emilia, come ormai purtroppo avviene da giorni. L'altra più forte all'1.26 di 3 gradi sulla scala Richter. Oggi ricordiamo che il ministro Corrado Passera parteciperà al Consiglio straordinario di Confindustria Emilia-Romagna, mentre in Commissione Ambiente alla Camera ci sarà l'audizione di Coldiretti e Confartigianato sui territori proprio colpiti dal sisma. E per il momento è tutto. Grazie dunque anche a Katia Caramelli, grazie a Diego Rovelli in redazione, Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.